quindi non è assolutamente traumatico per le caviglie, per le ginocchia eccetera, sì. Ed è in grado non solo di lavorare sulla parte articolare muscolare, se ma se non gli sulla piace l'acqua carte. Me ne tiri fuori altre se due rapide. Se non le piace l'acqua, la cyclette, la bicicletta ellittica, che a me piace molto, che è molto poco, quasi niente traumatica sulle ginocchia, sulle caviglie, ha un movimento molto armonico ed è aerobica. Camminate, non dico correre no per il nostro Signore, ma fare delle belle camminate, anche quello, se le sue ginocchia e le sue caviglie glielo permettono, può essere una soluzione. Ma la bici ellittica e il nuoto, accanto alla ginnastica, vanno benissimo. Professoressa Lucini, non le dico quante richieste sul ginseng, quindi ragazze, pensateci. Professoressa Lucini, grazie per essere stata con grazie noi. Grazie a lei, Nicoletta. Siamo tutto. Stati molto bene, ci diamo appuntamento come sempre a lunedì. Intanto passatevi un buon fine settimana, un saluto da Nicoletta. Essere e benessere.